30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Scotland Yard ha ricevuto la richiesta del parlamentare laburista Tom Watson di valutare le potenziali contraddizioni nella dichiarazione di James Murdoch ai comuni e la sta esaminando, lo ha indicato la stessa Metropolitan Police. Watson si è rivolto alla polizia dopo che l'ex direttore di News of the World e l'ex avvocato di News International avevano accusato Murdoch di avere fuorviato il Parlamento sulle intercettazioni del domenicale. Buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento di 30 minuti in cronaca. Dunque Murdoch, anzi i Murdoch, visto che nel lancio abbiamo citato James, un caso naturalmente di portata internazionale. Ne parliamo questa sera con il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, Leonardo Maisano. Buonasera Leonardo. Buonasera a voi. Allora io direi di cercare di ripercorrere questa settimana attraverso gli interventi. Chiedo subito a Paolo Corleone allora di farci sentire come è iniziata la settimana di David Cameron. Prego. What is the difference between Sir Paul Stevenson employing Neil Wallis to do his PR and you employing Andy Coulson to do yours? Apart from the fact that Andy Coulson is the one who's resigned over phone hacking. Domanda di un giornalista. Era il giorno della visita al presidente Zuma, quindi in Sudafrica al Mandela Day. David Cameron viene interrogato dai giornalisti sull'affare che è in corso in patria. Lui conclude di fatto dalle sue spiegazioni, conclude soprattutto l'intervento dicendo ritorno a Londra, anticipo la chiusura di questa missione, mi limito a visitare il Sudafrica dove era già e la Nigeria, ne taglia una parte per tornare di corsa a casa. Allora, che la settimana fosse complicata, Leonardo si è capito fin dall'inizio e che Cameron fosse al centro dell'attenzione anche. Sì, da gennaio quando Andy Coulson si è dimesso la vita per David Cameron si è particolarmente complicata e promette di esserlo sempre di più perché il ruolo del suo ex portavoce ed ex direttore del News of the World in tutto l'affare Murdoch è assolutamente centrale. L'abbiamo visto anche in queste ore con la scoperta che a Andy Coulson era stato consentito di non seguire le procedure di sicurezza e tutto il clearing che deve venire garantito a un neo assunto a Downing Street. Ecco, Andy Coulson ebbe un trattamento di favore e adesso i media inglesi stanno indagando per cercare di capire perché e chi garantì a Coulson questa via di accesso privilegiata alla stanza del potere inglese. Insomma, in questa settimana abbiamo detto che lunedì già tradiva l'aria che si sarebbe respirato poi per tutto il corso della settimana. Martedì è stato il gran giorno dell'audizione in commissione parlamentare a Londra per Rupert Murdoch e per il figlio James. To particularly the victims of illegal voicemail interceptions and to their families. It's a matter of great regret of mine, my father's and everyone at News Corporation. Le scuse di James Murdoch rivolte alle persone che hanno sofferto. Sta parlando da pochi minuti il figlio Murdoch, ma viene interrotto dal padre. Which I believe was around the closure of the News of the World newspaper. Before you get to that, I would just like to say one sentence. This is the most humble day of my life. Questo è stato il giorno più umiliante della mia vita. È stato uno delle headline, uno veramente dei titoli di questo martedì che ha visto l'uomo potente, temuto, rispettato presentarsi e dichiarare appunto di essere di fronte a un momento così drammatico. Ma la domanda poi successiva che ora sentiamo riguarda invece il modo in cui i Murdoch hanno gestito questa crisi. Endemic is a very hard, it's a very wide ranging word and I also had to be extremely careful not to prejudice. Gli chiedono sostanzialmente, ma quando ha capito lo sviluppo reale delle cose, cioè la portata di questo scandalo? Is an excuse, maybe it's an explanation of my laxity. The News of the World is less than 1% of our company. E lui dice News of the World è soltanto l'1% della compagnia, di una compagnia che gestisco e che dà lavoro a 53.000 persone. Dice forse non è una scusa, ma insomma pone questo elemento. Leonardo, secondo te questa uscita, perché poi ne vedremo delle altre, questa dichiarazione è stata felice? Forse non è stata felicissima, però probabilmente è stata una delle cose più vere uscite da quell'audizione, nel senso che immaginare che Rupert Murdoch, a 80 anni, alla testa di News Corp, appunto un conglomerato di quelle dimensioni, fosse esattamente al corrente di quello che facevano i suoi direttori e di questo metodo che pure era diffusissimo nei suoi giornali in Inghilterra, ma non soltanto nei suoi, probabilmente, come sembra emergere, seppure nei suoi con atteggiamenti radicali ed estremi. Ecco, immaginerei che lui fosse assolutamente al corrente di questo, è tutto da provare ed è tutto da dimostrare. Si tratta di capire che rapporto c'era fra lui, il figlio, che certamente era molto più vicino alle vicende britanniche, il management, che pure in particolare Rebecca Brooks, l'amministratore delegato dei giornali inglesi, che comunque Rupert Murdoch ha difeso fino alla fine. Ecco, una cosa secondo me, forse una distinzione va fatta tra il ruolo e quello che potevano conoscere Rebecca Brooks, James Murdoch, e quello di cui poteva essere al corrente fin dall'inizio Rupert Murdoch. Un altro passaggio, direi, chiave, che sentiamo immediatamente. I parlamentari, ricordiamo, una commissione di 10 parlamentari, pongono le domande, e tra le domande c'è, ma in sostanza lei accetta la responsabilità finale di quanto accaduto? Did you close the paper down because of the criminality? Yes, we felt ashamed of what had happened and thought we were going to bring it to a close. Mr. Murdoch, do you accept that ultimately you are responsible for this whole fiasco? No. You're not responsible. Who is responsible? The people that I trusted to run it, and then maybe the people they trusted. Ecco dunque, signor Murdoch, si sente responsabile infine? No, molto secco, molto preciso. Allora chi è responsabile? Le persone di cui mi sono fidato e quelle che a loro volta si sono a cui si sono affidate queste persone. Ma insomma, non si chiama scaricabarile questo? Sì, si chiama scaricabarile, però ripeto, c'è un margine di verità nella sequenza Murdoch prima linea del management. Al di sotto non è più accettabile. Ma che la cosa fosse altrettanto evidente, ripeto, al figlio James, a Rebecca Brooks, quanto a Rupert Murdoch, secondo me ci sono dei dubbi. Ecco, in che modo dunque James e James Murdoch, dunque proprio anche in queste ore, viene richiamato pesantemente in causa? Sembra anzi che l'attenzione si focalizzi proprio su di lui. Sì, ecco, questo cambia ulteriormente le cose per due motivi. Prima di tutto perché dalle accuse del direttore del News of the World, del legale rappresentante della testata, non rappresentante, del legale della testata, James Murdoch era al corrente fin dal 2007 del fatto che quelle fossero pratiche comuni nei suoi giornali. Lui questo lo ha negato e questo è un problema gravissimo, perché questo, se effettivamente si dimostrerà che lui era al corrente, vuol dire che ha mentito, e mentire ai comuni o comunque davanti a una commissione parlamentare inglese è un fatto di inaudita gravità per tutte le società, per questa in particolare. Primo, al punto che oggi David Cameron per la prima volta è dovuto intervenire e dire a James Murdoch di dare immediati chiarimenti su questa discrasia, su questa discrepanza di versioni. Questo è un aspetto assolutamente centrale che rischia di coinvolgere James Murdoch direttamente. A quel punto, se è così, lui era al corrente fin dal 2007, quindi dall'anno del suo arrivo alla guida di News International, di quanto stava succedendo. È plausibile che da allora fino al 2010 Rupert Murdoch non fosse stato messo al corrente? Ripeto, è molto difficile da stabilire, mi sembra in qualche modo plausibile, però sarà solo un'inchiesta che potrà chiarirlo. Questo quello aspetto. Che mi sembra invece assolutamente indiscutibile è che se lo sapeva James Murdoch, ovviamente lo doveva sapere Rebecca Brooks, ovviamente lo doveva sapere Andy Coulson, cioè i due direttori dei giornali che si sono succeduti in quegli anni. Ecco, un altro aspetto di questa vicenda, l'abbiamo citato fin dall'inizio, è quella che invece si proietta verso il mondo della politica. David Cameron, dunque il primo ministro britannico, da lui ripartiamo, perché se è vero che martedì abbiamo sentito i Murdoch e Rebecca Brooks di fronte alla commissione parlamentare, il giorno successivo, intorno al mezzogiorno italiano, è stato proprio il primo ministro invece a presentare ai comuni una sua dichiarazione, che poi ha portato a 2 ore e mezzo di dibattito. Abbiamo registrato 138 domande. 30 minuti in cronaca. Mercoledì dunque 12.30, Westminster, il premier britannico David Cameron prende la parola e naturalmente si deve difendere. Sentiamo. There is the question whether everyone, the media, the police, politicians, is taking responsibility in an appropriate manner. I want to address my own responsibilities very directly, and that brings me to my decision to employ Andy Coulson. Eccolo dunque, diciamo, non gira intorno alla questione, parla della complessità di come media, politica e naturalmente la polizia abbiano gestito questo evento. Lui dice: io parto dalla mia responsabilità diretta, Andy Coulson. Sostanzialmente cercherà di affermare da una parte che se avesse saputo ciò che sa oggi si sarebbe comportato diversamente, di ribadire che comunque nella sua cultura le persone sono innocenti fino a prova contraria. Insomma, Leonardo Maisano, l'effetto complessivo qual è stato visto da Londra? L'effetto complessivo della linea di difesa di Cameron è stato abbastanza positivo, cioè nel senso che è riuscito a rintuzzare, diciamo, tutti gli attacchi che entravano poi molto nello specifico, eccetera, tranne che su due punti. Su due punti, il suo rapporto con Coulson e quindi la sua, come dire, linea del piave. Coulson non sapeva, se Coulson si dimostrerà che invece era al corrente, pagherà per questo anche dal punto di vista giudiziario, vale fino a un certo punto, perché la capacità di reazione di Cameron in questi mesi è stata estremamente lenta, e se Coulson era effettivamente al corrente, come tanti sospettano, secondo me Cameron avrà delle conseguenze da un evento del genere. Il secondo punto è la questione Biscay B. Come sapete, Biscay B è stata al centro di un importantissimo deal che è saltato per questa vicenda e che prevedeva che il gruppo News Corp prendesse il 100% della pay TV inglese, di cui oggi detiene il 40%. Doveva essere fatto ai primi di luglio, poi Murdoch ha rinunciato nel pieno di questo scandalo. Bene, la domanda che era stata fatta a Cameron è: era al corrente dei dettagli di questo accordo, di questo tentativo di scalata, e soprattutto ha avuto colloqui su questa acquisizione con manager del gruppo o con Murdoch? Lui ovviamente era al corrente, però ha detto: io mi sono chiamato fuori da questa cosa, non ho avuto, ha detto, colloqui inappropriati. Visto che l'hai citato, sentiamo subito Ed Miliband, che è il capo dell'opposizione laburista, interviene esattamente su questo aspetto. Think of what the public thinks of our behavior. Order and stop it. Preceduto dallo speaker del Parlamento che sgrida i parlamentari e impone l'ordine. The Prime Minister said in his statement something that he said on a number of occasions, which is that he was excluded from the formal decision-making process. But with respect, that doesn't quite answer the questions he's been asked. Last Friday, he revealed that since taking office, he had met representatives of News International or News Corp, including Rebecca Brooks and James Murdoch, on 26 separate occasions. 26 occasioni separate gli rinfaccia Ed Miliband, leader dell'opposizione. Esattamente, diciamo, il punto che stavi sviluppando. Prego, Leonardo. Sì, è uno dei punti più deboli della difesa di Cameron, perché in effetti questi incontri apparentemente ci sono stati, è molto difficile stabilire di che cosa abbiano parlato. Appare del tutto incredibile che non abbiano mai affrontato il capitolo Biscay B. Il primo ministro si difende dicendo non colloqui non appropriati, ripeto, resta da capire quali sono dei colloqui del genere appropriati. Siamo evidentemente su un crinale molto difficile da definire, molto difficile anche da provare, ma è una vicenda che continua a riservare colpi di scena, e se si andrà nella direzione Biscay B oppure nella direzione Coulson, in entrambi questi possibili scenari che si vanno definendo Beh, Cameron potrebbe ritrovarsi in una situazione di grandissima difficoltà. Sullo sfondo un tema ampio, un tema che non è certo solo britannico e che Cameron affronta, quello del rapporto tra la politica e i media. The balance between politicians and the media in Britain. A relationship that became too close, too cozy. We were all in this world of wanting the support of newspaper groups and yes, even broadcasting organizations. And when we're doing that, do we spend enough time asking questions about how these organizations are regulated and malpractices and the rest of it? Una relazione, dice Cameron, che è diventata troppo stretta, una relazione che ci ha spinto a chiedere appunto un'intimità che è andata evidentemente oltre il giusto, al di là del lecito, e che non ci ha permesso di porci delle domande sulle conseguenze. Cos'è, un tentativo, diciamo, di condivisione delle responsabilità o piuttosto l'affermazione di un problema un po' dei nostri tempi? Ma senz'altro è un po' di tutte e due le cose, cioè nel senso che condivisione della responsabilità Cameron ci prova e ne ha solo un vantaggio, e ci prova anche perché ne ha dei buoni motivi. Cioè, non dimentichiamoci che il gruppo Murdoch ha sempre è sempre stato con il vincitore, cioè, nel senso che e ha contribuito a determinarne la vittoria. Era stato esattamente con lo stesso con Tony Blair e in una certa misura minore anche con Gordon Brown. Poi a un certo punto hanno deciso che Brown era finito, che l'epoca laburista doveva in qualche modo chiudersi, e hanno dato il famoso endorsement pubblico, cioè il sostegno pubblico, tutti i giornali del gruppo a Cameron, e questo è stato, a mio avviso, è stato molto importante per vincere le elezioni. Ci sono altri commentatori politici inglesi che sostengono che in realtà non è così essenziale. Comunque, tradizionalmente il sostegno dei quotidiani di qualità, Times e Sunday Times in prima linea, che sono quelli di Murdoch, e quelli popolari, Sun e News of the World, è sempre stato importante per vincere le elezioni. Quindi comunque gli ha dato una grande mano per vincere queste elezioni. È questo in qualche modo l'equivoco politico che va in parallelo alla questione dell'etica giornalistica. La domanda che ponevi prima, cioè andremo verso una stretta nei rapporti tra media e politica? Sì, probabilmente si andrà in quella direzione, anche perché i media da un certo punto di vista hanno esagerato, certamente quelle pratiche dei tabloid erano illegali, c'era un rapporto con la polizia inaccettabile che da noi non sarebbe mai neanche lontanamente possibile prendere in considerazione, cioè il giornalista che va a pagare il poliziotto è evidentemente un reato, non è un comportamento diffuso, ma in realtà è stato a lungo un comportamento diffuso. Ecco, questo genere di rapporti vanno in qualche modo regolati. Ecco, quando dici regolamento esterno, non interno, cioè non un organismo di autoregolamentazione come esiste adesso, chiaro che pone dei problemi, perché nel momento in cui tu regoli la libertà di stampa, vabbè, apri inevitabilmente un capitolo molto difficile. Un altro capitolo assolutamente molto delicato, dove muoversi con prudenza. Hai detto certe cose da noi non sarebbero state possibili, da noi ovviamente in Italia. D'altra parte la sensazione personale è che attraverso queste audizioni pubbliche che abbiamo seguito sul web, che tutti hanno potuto seguire, ci sia stata una grande lezione di democrazia. Qualcosa da imparare c'è da questa vicenda, e qui mi riferisco proprio a noi italiani. Ma questo, devo dire la verità, fino a un certo punto. Non sei d'accordo? C'è stata nel senso che c'è stata una grande... C'è stata a un certo punto una grande rapidità di reazione, ma i tempi di Cameron sono stati lentissimi. In realtà la rapidità di reazione è stata determinata dalla dinamica degli eventi e dall'epoca in cui viviamo, cioè certi fenomeni non si tengono più. Il fatto che i social network eccetera abbiano fatto subito una grande pressione ha inevitabilmente, come dire, messo una pressione sulla politica che ha dovuto agire. Quindi quanto tutto questo sarebbe avvenuto comunque, non lo so, è avvenuto ed è importante. Questo è poco ma sicuro, grazie a Leonardo Maisano, è avvenuto, è importante, continuerà evidentemente a avvenire perché, come abbiamo già detto in un paio di occasioni, insomma, le notizie si susseguono su questo fronte e non mi resta che rimandarvi per tutti gli aggiornamenti ai nostri approfondimenti, a GR24 soprattutto. Bene, noi abbiamo concluso questo appuntamento, ancora grazie a Leonardo Maisano, lo ricordo, corrispondente da Londra del Sole 24 ore, a Paolo Corleoni in regia, un saluto a tutti voi, 30 minuti in cronaca, torna sabato prossimo.